find. Still I'm happy for you. That I never been able to really make you blue. Cox spaziale. Oh, 60 milioni di partiti. 60 milioni di partiti? Sì, la rivoluzione di una partita. Qual è 60 milioni di partiti? Non la conosco. Bene, allora ascoltiamo 60 milioni di partiti dello Stato sociale. Dediche richieste da Yumi. Per una vita in tempo reale, a trasmissione globale, in differita satellitare, con problemi di connessione. Schiavo dei soldi, schiavo del tempo, della moda del momento, e poi muori. E non è detto che a quel punto tu abbia smesso di pagare. E odi chi è successo, perché non sai odiare chi ha potere. Lavori per non pensare a che lavoro fai, perché ti chiede sempre di più. La paura non serve a nulla, l'amore al peggio ti fa dimagrire. E non resta niente dei tuoi sogni se la sveglia non valgono più. Voglio una musica solo per noi, senza pensare a quella degli altri. Una musica che sia un incendio, che ti fa uscire di casa e fare solo esperienze che non vanno su un curriculum. E quando la vita sarà una responsabilità, sarai sempre la mia scusa, il resto è inferno a fuoco lento. Il resto è inferno fuoco lento. Tutti i musicisti parlano di musica, i registi parlano di cinema, tutti i fotografi se hanno un telefono, scrittori se hanno un blog, tutti svegli alle 5, tutti poveri, tutti all'università, tutti innamorati, tutti traditi, 60 milioni di partiti. Questo paese ha bisogno di silenzio, e io di certo non lo sto aiutando. Questo paese ha bisogno di silenzio, solo dopo la musica avrà di nuovo un senso. Restano forse i libri, i concerti, le lotte di strada, l'amore, i luoghi in cui davvero sei solo, in cui davvero sei con qualcuno. Il resto è inferno a fuoco lento. La rivoluzione che non passerà in TV, questa invece è la canzone richiesta da Nicola, sempre dello Stato sociale. Per sentirmi grande, una mano che mi cerca il cuore nelle mutande, una notte con i sogni incartati nei giornali, un pastore con le ferie pagate dai suoi cani. Hai fottuto il tuo futuro solo che per lui era un gioco, e ti vuole segretario per toccarsi un poco il culo, e ti vuole con il sonno addosso per dirti puttana, e ti vuole al centralino per non parlare da solo. Han detto la vita, la vita, la vita è pagare i debiti che fanno i ricchi e aspettare pure il resto a calci in culo. E ti han detto che si chiamano profitti. Hanno detto un giovane come Natale ora tutti i giorni oppure non l'è mai. Scegli se invecchiare, perderti con stile o rubare a chi ti venderai. E sei tutta questa voglia di scappare, neanche un posto come dici tu. Dammi un bacio che fuori è la rivoluzione che non passerà in TV. Dopo lavoro delle fate, un colpo alla banca del seme, ora la morte via. Ragazze smaliziate cercano benzina per autoironia, mentre imprenditori bruciano l'ufficio delle entrate. E dove entrava per godere, ora escono bambini, tutti con le scarpe uguali e una voce petulante, tutti a dire le preghiere come chi non crede a niente, che l'inferno è il paradiso prima che venga la gente. E un giorno al mese tutti pronti a battere le mani sugli scudi per gli scudi, con le facce sfigurate, caricate e caricate, fino a quando siamo soli, finché siete soli al punto che da soli vi ammazzate. Una promessa elettorale per ridarti indietro il tempo, un amore preso a botte dall'ebbrezza del momento, 3 minuti per cantare, una vita per crepare, una stanza in tre per fottersi in un mondo da cambiare. Hanno detto un giovane come Natale o lo è tutti i giorni oppure non lo è mai. Scegli se invecchiare, perderti con stile o rubare a chi ti venderai. E sei tutta questa voglia di scappare, neanche un posto come in giù. Dammi un bacio che fuori è la rivoluzione che non passerà in TV. La scaletta non si trova. It might have been Camelot for Jack and Jacqueline, but on the Che Guevara highway filling up with gasoline. Fidel Castro's brother spies a rich lady who's crying over the luxury's disappointment, so he walks over and he's trying to sympathize with her, but he thinks that he should warn her that the third world is just around the corner. The Soviet Union, a scientist is blinded by the resumption of nuclear testing, and he is reminded that Dr. Robert Oppenheimer's optimism fell at the first hurdle. The cheese pavilion, and the only noise I hear is the sound of someone stacking chairs and mopping up spilled beer, and someone asking questions and basking in the light of the 15 fame-filled minutes of the fanzine writer. In pop and politics, he asks me what the use is. I offer him embarrassment and my usual excuses, while looking down the corridor out to where the van is waiting. I'm looking for the Great Leap Forward. Sales are organised and pamphlets have been posted. Even after closing time, there's still parties to be hosted. You can be active with the activists or sleeping with the sleepers while you're waiting for the great leap forwards. Oh, one leap forwards, two leaps back. Will politics get me in a sack? Waiting for the great leap. Well, here comes the future and you can't run from it. If you've got a blacklist, I want to be on it. Waiting for the great leap forward. Well, it's a mighty long way down rock and roll from top of the pops to drawing a thumb. When you're waiting for the great leap forward. If no one out there understands, just start your own revolution and cut out the middle man. Waiting for the great leap. Perfect world, we're all singing tune, but this is reality. So give us a run. Waiting for the great leap forward. So join the struggle while you make the revolution. It's just a t-shirt away. Creatività generica. Navigando invece su blueinartinfo.com, che una volta era semplicemente artinfo.com, scopro una notizia pubblicata stamattina che hanno ritrovato dopo 60 anni lo screenplay di Burning Street, che è un film di Stanley Kubrick che era stato perso appunto da 60 anni. Lo scritto originale di Burning Street è un adattamento, sto naturalmente traducendo alla cazzo di cane dall'inglese, di una novella del 1912 dello scrittore viennese Stefan Zweig, una storia di adulterio e passione ambientata in una spa resort, in una alle terme. Allora, lo screenplay era stato originariamente scritto da Kubrick nel 1956 con lo scrittore Calder Willingham, prima di fare il film Paths of Glory ed è stato perso fino ad ora. Scrive Nathan Abrams dal Guardian: non ci posso credere, è così eccezionale questa cosa. Eravamo sicuri che lo screenplay fosse stato perso per sempre. E invece gli aficionados di Kubrick sapevano che lui avrebbe voluto fare questo film, ma nessuno pensava che avesse completato lo scritto, appunto. Invece adesso abbiamo una copia e questo prova che lo scritto era stato terminato. La vita è lunga, più che fosse oggi. Li manca de temper aprene che de si cuccia li approccia l'ome du scopulere do paire eterne ma in ma si è stupende in pensie se so vo che fa de mulala ne si niun davan che sto si incubasie c'è una risposta universale tante ma cuva social ma pre tante ma pa besoin de s'estre tante ma li sarai voli sarai pa Spagna de guna pena tante ma cuba socia pa pre satan de ma va besoin de s'estre satan de ma li sarai voli sarai pa de manti ne te manda dai patta la che mangi un pu e me le pensa me che li fa mouilli la cervella e per passi gava de merda me non fa pita di sa gamella si decadema tante ma qui va socia pa pre tante ma pa besoin de s'estre tante ma li sarai voli sarai pa de manti ne te manda dai patta mon propriétaire il te lo anga mi fa si fo pa gada valute se mo la mena se la vente sto fa pa l'uve sa gita con il verme Demanda, sono Claire Underwood ed anch'io ascolto Coxo Spaziale. È un Coxo Spaziale un po' estivo questo, insomma, e adesso sto ascoltando in macchina La città del, non riesco a leggere il titolo, di Rosalia de Sousa, che abbiamo ascoltato qualche tempo fa quando il disco era appena uscito. Il disco si chiama Tempo ed è molto bello, appunto me lo sto ascoltando in macchina. Dicevo, questa è una puntata un po' estiva, per cui metto un'infilata di pezzi abbastanza assurdi, non come questo, ma abbastanza più abnormal, come direbbe Frankenstein Junior. E poi niente, così ci godiamo l'estate. You say no. You say no. You say no. Yeah, I love that one. All things ain't what they do. Thank you. Saci spaventosi. Sono Paolo Assei e sto ascoltando Coxo Spaziale. Cielo grigio su, foglie gialle giù. Cerco un po' di blu, dove il blu non c'è. Sento solo freddo, fuori e dentro me. Ti sogno, e un giorno io verrò là. Ma il mio pensiero invece va, rimane sempre là, al sole caldo che vorrei, che qui non verrà mai. Ti sogno, e un giorno io verrò là. Thank you.